Susuntete buiko kele mama Bakentu bakulu bonga bonga bisangala Kwelu kwenda kumaza tu kwenda Makisalu kibonga bakentu Susuntete buiko kele mama Bakentu bakulu bonga bonga bisangala Kwelu kwenda kumaza tu kwenda Makisalu kibonga bakentu Maria Luna, umbandila matukalao. Maria Luna.